forse il calare della sera, a volte strana compagnia ci trascina in mezzo alla bufera di momenti e un po' di nostalgia. Una storia che cos'è? La rivivi come in una scena, poi ti accorgi e senti che non c'è. Vuoi volare indietro coi ricordi, sentire cosa è stato di una volta. Col pensiero rivolto ad una luce per togliere dal buio la tua notte. Ciao, adesso come stai? Ora meglio averti qui con me. Com'è dolce starti in compagnia, ogni istante vissuto accanto a te. Poi un sorriso e solo noi, sta scoppiando dentro quella scena, ogni istante passato in compagnia. Poi quel mondo rinchiuso in una stanza, vestito di profumo a primavera. Nella gola adesso il cuore danza, trattenuto a stento da un sospiro. Il sole del mattino ha spento la luce della scena, si placa adesso la bufera, la vita riprende il suo cammino. Quel sorriso resta ancora, fa parte ormai dei tuoi ricordi, ciò che dentro non lo togli più. Forse un giorno, vivendo un'altra sera, provare le emozioni di una volta. Se l'amore è stato storia vera, rimane dentro e non lo scordi più.